introspettivo, né stile vita, per chi mi giudico, chi mi critica. Fare prendi i Porsche, ma di facile per cabash, a rapa coscia, una pe... che vorrei che nasce, tesoro nasco, sonata mise sotto, mira cot, sin di avere che caffor, colore si semaforo, colpendo senza l'aria, a vuoto si con micro, chiudendo in dasmani, veloci per d'impazzuto, non muti da un terrestre comune, afferra chi si intuita, amore per conchiglie, cammina che tartaruga, vaghi in giro muto senza armatura, mauti flauto, beve che la cash puto, dica le perdute, carente rinde fuga, valorizzatima, descrive battita, volando come al cielo, con l'aiuto ripattina, femmina truccata e bella, con lotta a carusiella, brilla come stella, con vuole si gioiella, buona per ride, ma yes, niente sai tella, ride che compagna, mano, rinde in mano, fir, rinda a mano rimano, arrifanno tutto che la capo team, cash rimanano, umano, e si m'ha fatta così. E si m'ha fatta così, e si m'ha fatta così, e si m'ha fatta così, umana, e si m'ha fatta così, umana, e si m'ha fatta così, umana, e si m'ha fatta così, umana, voglio essere fatta così, umana, una bella rara, caro come all'origine, anni lungo pedete, una sigma te. Immagine l'immagine in angelo, volo goppe in nuvole, immagine l'aria, caspissa inutile, sabamma tutto costro, hanno futile, fucile che non sparna, colpa a galla, spalla a spalla in de gara, se vive sa para, pa Paris, pa, va chiave ra letture, spisse na chiave che, cavalca sempre l'onda, camara carana, un solo camacos, abbrucia si pensieri, se porta, se gode sa voce, na croce, felice in un sorriso. Se botto, vega botto triste, ca fuori, non senza rangoscia, ci manca l'amore. Si ma frate ca fuori, non frate ca fronte, in fondo, l'egoismo fa parte noi. Sa me scrindo bene, così drindo scuro. E notte, stanotte, sti noto non sonano. Stanotte, sti noto non sonano. E si ma fatta così, e si ma fatta così. E si m'ha fatta così, e si m'ha fatta così, umana. E si m'ha fatta così, umana. E si m'ha fatta così, umana. E si m'ha fatta così, umana. Voglio essere fatta così, umana. Yeah, tragedia 2014. Budimma cagna, quella che sim. Yeah.